Miau. Thank you. attenzione che alle 10 cambio. Buonasera, non c'è nessuno più da questa parte. Sei tutto saturo, chi sei? Luca, stazione Floppy da Sassari, ciao, buonasera. Ciao Luca, adesso sei perfetto, dai. Cosa avevi, attaccato il lineare? No, attaccata la bocca al microfono, invece lo devo tenere lontano. Perché quello lì è un microfono amplificato, che microfono è? No, non è un microfono amplificato, è un microfono che c'è scritto Dynamic Microphone. Made in Japan. Sarà di quelli precompressi, dai. Di quelli che facevano prima, che hanno un compressore all'interno, che fanno uscire forte, come quello del Tokai 5024, eccetera. Boh, non sono afferrato in materia. E mai io sì. No, comunque c'è bene, è molto forte. Mi fa piacere, meglio così. E non c'ho niente in aggiunta, altrimenti guai. Gappa. No, va bene, la radio è bella forte. Non è stato nessuno stasera, boh. È strano, questo l'ho ricevuto, c'è gente. Ma ero qua, ci sono qua almeno 20 minuti e non si è affacciato nessuno, ho fatto un paio di chiamate. Adesso stanno facendo cosa? Io sono tutto il giorno appeso a quel lavello, non abbiamo chiamato più, ho chiamato anche l'idraulico con la pompa a 5 non ce l'ha fatta stasarla, adesso io non so cosa dirti, c'è una rotturazione molto grossa perché solitamente io a 5 non la uso mai, la uso a 3 e mezzo, 4 proprio, l'ho provato 2-3 volte, niente da fare. L'unica è staccare il tubo del lavandino, quella è proprio il punto che entra nel muro, e nel muro infilarci anche molte curve fa per arrivare dove c'è l'ostruzione. No, è dritto perché va dall'avello va nel doppio servizio, capito? Se cammina il tubo dell'idropulitrice, che non è molto flessibile, il tubo nero, quello che si attacca alla lancia, invece di attaccarsi alla lancia, si monta in testa al tubo una testina che fa degli spruzzi avanti e sui fianchi ad alta pressione, e di solito quando trova l'ostruzione, che è sapone alla fine, la sfonda. Io l'ho usato anche nei pozzetti di acque nere, perché si erano intasate da radici, da cose giù a Platamona, e con quella mi ha fatto un buon lavoro. Se a sabato non hai risolto, vuoi provare, ben volentieri, non c'è problema. Allora, siccome l'aria, quando tu, sì, ho fatto così nel muro, abbiamo messo la pompa a pressione, l'aria te la spinge fuori, capito? Se lo fa con la pompa idropulitrice, mi allaga tutta la gas. No, perché in prima si infila la testa del tubo, quella dove esce l'acqua, ma l'acqua esce con un gettito fine e praticamente i getti sono uno in avanti e tre che spingono verso dietro, in pratica il tubo cammina da solo, tu lo imbocchi e la pressione dell'acqua lo porta in fondo. È un tentativo, prima di mettersi a sfasciare mattonelle a cercare il problema, se non trovi altre soluzioni. Sì, a me me l'ha data la soluzione, metto di chiamare l'autospurgo che fanno la diagnosi con la telecamerina e vedono dove è l'ostruzione e poi lavora. Ma l'autospurgo alla fine sì, la telecamerina guarda dove si trova il coso, si calcolano i metri perché infilano un sondino con la telecamerina in punta e vedono quanti metri è in base alla misura del cavo che infilano, e non è quello, è che poi la soluzione è la stessa, infilano un tubo col gettito d'acqua a pressione per sfondare, la soluzione è la stessa, non è che inventano qualcos'altro. Io adesso vediamo, è la seconda volta che vedo l'idraulico per vedere se ha fatto un altro tentativo, voleva vedere se ce la faceva con questo tentativo qua, perché mi ha fatto mettere dei liquidi per ammorbidire, ma non ce l'ha fatta manco lui, ci ha tentato 2 o 3 volte, ma è duro. Non si è formato solo un tappo, lui dice che secondo lui è un pezzo di tubo proprio che è pieno. Io ho sbagliato, perché quando cominciava a scendere poco, mi scendeva rallentatore, io mi accontentavo lo stesso, perché lasciavo lì e piano piano scendevo. E invece ho fatto male, perché quando scendeva lo dovevo fare allora. E vuol dire che il buco c'era quando scendeva. Invece sono provveduto e ho preso la questione. La mia disponibilità è quella, poi non lo so, fatti consigliare dall'idraulico di fiducia, se riesci a chiamare l'autospurgo, fai uno squillo a Testoni, alla PIP, insomma, già ce ne Leone, la PIP, già ce ne sono tanti. E ma chi sa Cantuni, quelli ci fanno pagare forte. Ah, quello è sicuro. A saperlo. Già risolveremo in qualche altra maniera. Perché sino circa un metro e mezzo entra, capito? Sino un metro e mezzo entra per trovare il blocco. E la mamma dell'elettricista sbatteva in punta e non andava avanti. No, non quella dell'elettricista, quella dell'idraulico proprio. Quella che è la manovella che si gira. E provare con un sondino in nylon quella molla da elettricista, che sono abbastanza rigide, senza mettergli la punta quella flessibile, ma mettergli dalla parte della coda e infilarlo. E magari quello, che ne so, sono tutti tentativi. Infatti ci vorrebbe qualche cosa con la punta, cercare di sfondare così. Ma chissà che quanto è grossa, capito? Non si sa quanto sia spessa. Perché io ne ho trovato un pezzo nel tubo quello nel tubo che scende dallo scarico, però era un pezzo tipo una pietra e sono riuscito a toglierlo. Per lui ho detto, ah, forse è questo qua che è bloccato, invece no. Quello l'ho tolto, ma sembrava una pietra pressata, dove c'è detersivo, roba del genere, e c'era la lana d'acciaio attorno, cosa che è strana perché io metto sempre il coso, il riparo per non scendere la roba, quel filtro, non so da dove sia passato. E negli anni, pagliuta per pagliuta, se si è accumulata, e più se ne accumula e più ne cattura, e non se ne bogga bene. C'è qualcuno che ha chiamato forse? No, di splatter forse. Fare manutenzione alla barca, andatoci. No, e ne fa rendere aria, è vetro più freddo. Intanto non è che la sto mettendo in acqua, no. No, quest'anno devo fare grandi manutenzioni, devo togliere i due piedi, i piedi pompieri per cambiargli le cuffie, poi gli faccio il cambio d'olio dei piedi e cambio gli zinchi, faccio girare i motori in acqua dolce bene prima di rimetterla in acqua e poi passo all'interno, devo fare il cambio dell'olio e dei filtri, sempre a tutti e due i motori. Ma si farà in primavera, diciamo a marzo, come ci sono delle belle giornate, un giorno mi dedico ai piedi e un giorno, un sabato ai piedi e un sabato a fare il cambio dell'olio, perché l'olio va aspirato con una pompetta e niente, dopodiché a aprile la rimetto in acqua. Ah, ce l'hai a terra adesso? Ah sì, ho capito, le rifai tu, la fai tu la manutenzione dell'olio eccetera eccetera. Se avessi avuto tanti soldi l'avrei fatta fare alla Nautica Pivisi o a qualcun altro. Sicuramente so i sciriabi, guri di là, e allora mi rimbocco le maniche e me lo faccio io. Tanto l'amore che ci metto io sulle mie cose loro non ce lo metteranno mai, io lo faccio veramente, è roba mia, e quindi lo faccio con criterio, pulizia e senza fretta, così è fatto bene. Sì, me li faccio io, no? Se no se sto a chiamare vivo, ci vuole uno stipendio. Se dopo e basta arrivi, fai bene che te lo fretti, se lo sai fare, scusa. Chi te lo fa fare? Pagare una cifra quando puoi, perché poi quando vanno i meccanici, roba così, si fanno pagare di brutto. io quando andavo alla concessionaria facevo il tagliando, erano minimo 350-400 euro, adesso vado dal mio meccanico con 150 euro mi fa il tagliando, mi cambia filtri, l'olio e poi se c'è qualche altra cosa, perché mi comprerà sempre i dischi di freni, qualche cosa, mi telefona, me lo dici, io dico cambia, quando sono da cambiare di cambio. Lo stesso per la vettura, adesso mi ho comprato i filtri e ce l'ho nella macchina. L'olio lo busco in azienda, che già va bene. No, quello è l'olio per il coso, no, l'olio per la barca, che è un 15-40 normale. No, l'olio per l'Audi l'ho comprato, ho preso il Motul 8100 se non sbaglio. Motul 8100 per Audi. Solo che anche per la vettura sta facendo troppo brutto tempo, perché noi in azienda abbiamo il ramblè, quella specie di rampa dove salgono i camion per fare i tagliandi, ma con questa pioggia non posso farmi il cambio dell'olio all'aperto, no, non fa, troppo brutte giornate, come fa qualche giornata di sole, allora di pranzo mi faccio tagliando. Ah beh certo, se non c'è fretta. Ma io gliel'ho fatto da poco nella macchina, ho fatto il cambio dell'olio dei filtri e poi praticamente avevo una parte di freni a disco di dietro che praticamente non frenava bene, mi stava rigando il disco, cioè mi ha rigato il disco da una parte e dall'altra non frenava. L'ho portata e mi ha cambiato i dischi, mi hanno messo in acciaio e dice questi qui non ci arrugginiscono più. Mi ha cambiato rischio e pastiglia. Copia. Beh, Gianni. Ciao Marco. Ho cambiato radio. Ciao anche a Luca. Mi pare sia lui, arriva a 9,40, pensa, questo c'ha 9,60 di fondo scala, 9,40, poi gli chiedo se è liscio o se ha messo qualcosa, e beh già, avevi poi risolto, non ho capito bene, che hai trovato paglietta, roba del genere. No, non ho risolto niente, è venuto anche l'idraulico e con la pompa non ce l'ha fatta. Penso non so cosa dirti, c'è troppo otturazione e non ce la fa mai con la pompa. Ma l'hai provato il Niagara, quella roba lì? Perché a parte le mattonelle di detersivo, quella che diventa tipo cemento bianco, non saprei cos'altro suggerire. Se non bisogna sfasciare, no, è un casino, Adesso ci metto una bacinella, lavo tutta la bacinella e poi ce la butto nel water, faccio così. Cazzo, non ne faccio lunga, Marco, di nave vuole per fasciare. Le mattonelle poi le devo mettere tutte nuove perché quelle non ce le ho più, non ne ho di riserva, quindi è un casino. Vabbè, se la bilia luci, già risolveremo. E sono tutta la sera che raccolgo acqua, già mi basta quello, stamattina e stasera, perché ho messo quel disgorgante, è rimasta la Coca-Cola, è rimasta tutta la notte allo stesso livello, non è scesa di un millimetro. E praticamente ho aperto lo scarico, l'ho fatta scendere dallo scarico e deve essere come ho staccato il tubo, ha perso acqua, sempre togliendone acqua, dalla sotto la cucina componibile, asciugavo e usciva di nuovo l'acqua, asciugavo e usciva di nuovo l'acqua, mi sono proprio rotto le palle, poi quel disgorgante che ho comprato, ho preso addirittura, perché non l'ho trovato in Niagara, Marco, l'ho cercato, non ce n'è, c'erano tutti i Mr. Bush, però Niagara esiste ancora, boh. Sì, già c'è, già. Magari non ce l'hanno tutti. Va bene, riprendi Luca. Eccomi, scusate che stavo controllando l'asciugatrice, anzi non controllando, ho tolto la roba dalla lavatrice e me l'ho messa in asciugatrice. E a Luca, ti volevo chiedere, ma sei col solito apparato, sei liscio o c'hai qualche aiutino? Più o meno c'è un piccolo aiutino. E allora... Me, anche Gianni Pompendi. No, sai perché te lo dico? Ho cambiato apparato, a dire 9,40, questo ha 9,60 di fondo scala. Ho detto, cazzo, ogni segnali da via l'Italia, vabbè, quasi via Budapest, dai. E, ascoltate, mi dovete dire se la modulazione è troppo forte, se la devo abbassare o se va bene così. No, va bene Marco, lasciala così e va benissimo. Quando ti sta arrivando il segnale, Marco? Alla impazziro. Ciao. ciao Ottore. Allora, 9 più 40 anche tu Gianni. Ciao Ottore, buonasera. E io la devo fare. Ah? Cos'è che mi hai detto? Buonasera a tutti qua. E cosa vuoi che ti faccia? Ma ne sto arrivando. Sì, se basso di radio, ma già va bene, dai, sempre basso di radio. Faccialo scaldare appena, che è freddo. Ha freddo? Metti una coperta sopra. Non so, se gliela metto a voi di pigliare un raffreddore. Bella bella. Marco, comunque c'era un cavo in corto. Ehi, me l'avevi detto già, hai scoperto che era il cavo, ehi. Io ho tolto il bip anche, perché è un po' impegnativo. È troppo lungo e assillante. Cosa ti volevo dire? Sai cos'è, mister muscolo, certe volte quelle cose che mi sembrano un po' troppo diluite già, la roba un po' più soft che usano molto, molto commerciali. Niagara è più forte, infatti l'ho usato con cautela, rare volte, però boh, e d'altronde la dovrei risolvere la storia, e se no cosa fai, non usi più il lavandino, certo una rogna amico, quando succede una rogna. Per fortuna voi avete tubature abbastanza nuove, qua ci sono tubature degli anni 50, che se vai a usare il Niagara si porta via anche il tubo arrugginito. Vai Tore. Ah c'è, cioè, dove lo trovi col Niagara? Da R, lo dovresti trovare. Da R? In via Castellare? Vabbè, più in Chivi, se non mi sbaglio. A Canica. Ah, ho capito. Vabbè, grazie Tore, ce lo trovo, lo prego. Cazzo, il giorno dello speso di studio ho preso, come si chiama, Mister Muscolo due volte, poi ho preso, come si chiama, la soda caustica, insomma, la illuminata moda di Roma. Sì, ma non è sta roba diluita, quella lì non agisce come deve agire, ecco cos'è. Io ce l'avevo ultimamente e l'ho dovuto usare su mia figlia a casa Giulia e non ne ho più. Avete parlato in due. Credevo che l'avessi messo a tua figlia, come l'hai detto, l'ho dovuto usare su mia figlia. Sì, a casa sua, a Chieda, ogni tanto c'eri con tutto il rubero di bimboni, c'è in casa. Capo, potrebbe essere anche il pelo del cane, perché magari pulisci i polsi con lo straccio, poi vai a sciacquarlo, capito? No, a casa sua il pelo del cane non ce n'è, che nonna. Reagire oggi, ma qua non mi è mai successo nulla a me di questo fatto qua. Non lo so perché, io guarda, più di quello che faccio, quando lavo i piatti li passo sempre la scottes prima di lavarli, li faccio lucidi prima di lavarli e poi li lavo. No, ci dovrebbe essere qualche altra cosa, non è incrostazione, anche se no c'era già asciutta. Guardate, ci deve essere qualche cosa di coso, una cosa. Qualche cosa di lana d'acciaio già l'ha tolta. Infatti mi ha detto, qua c'è lana d'acciaio. E come ti ha fatto a farmi? Deve essere cosa grossa, deve essere. Anche se no c'era gli asciutta. A me non mi è mai capitato questa cosa, cosa di bolso di 40 anni che ho fatto da me, non mi è mai successo nulla. Sei fortunato, è da voi che ti chiedi. Magari le tubazioni di scarica sono più fini, e tu sono più grossi, e passa a me. I tubi sono da 40, sono, non è che sono i tubi che facevano prima da 40, quelli grigi. Non so cosa dirti, so solo che io ne ho tentato, guarda, avevo speso a 6 euro il pezzo, infatti un botto nel 2004, di sgorganti, tutti uno diverso dall'altro, solo due mister muscoli li ho presi uguali. Ah no, è cosa di grosso, Poi l'acciaio ci ha fatto un pezzo grosso, e piano piano ne sta uscendo. avevo un bel tempo. No, è rimasto attaccato alla molla, quando gli ho fatto entrare la molla è rimasto un pezzettino attaccato alla molla, un pezzettino, non dico un filamento, ma un, diciamo un paio di un rotolino del piccolino. Sì, ma non hai capito, da penso che si è fatto grosso, quanto è il tubo si è fatto, mi compreso, e non riesce ad andare via. E sta mollando piano piano. No, vabbè, vediamo che muovi. Avanti Marco. Ehi, oggi Gianni ero in via Montello, mi sono ritirato in Mastelli per la differenziata. E comunque il commento mio è quello, a me mi pare una strunzata. Poi, per esempio, il secco, no? Quello generico lo chiamo, il secco, cioè lo ritirano una volta a settimana. Questo Mastello è piccolo piccolo, a me sembra una fesseria. Non, era meglio i cassonetti secondo me. Poi vedrai le lamentele che ci saranno, Gianni. Sì, infatti devono vedere se funziona, così ha detto l'assessore, ce l'ha dato la riunione comunale proprio. L'assessore ha detto adesso proviamo, se va, dipende come funziona, se vediamo il funzionamento, se va bene, se no ritorniamo alla vecchia guardia. Ma io penso che abbiamo sbagliato, dovevano mettere più controlli per la gente che butta le buste nere, che butta la mondezza dalle campagne, che viene con la macchina, col carrello, si scarica, l'ho visto io la notte quando vado col cane, l'ho visto io, questo qua che mi guardava, no, per vedere se lo stavo guardando, col carrello, le buste nere di quelle grandi, tutte piene di roba, sicuramente era tutta mischiata, e la buttava nel verde, nel differenziato. Fini la pena e no, ce l'ho di fronte io i cassonetti. Ma via già ho il furgone alle 11 di notte. Ce lo farà da giù se te ne ha già fatto una zicchiriata, che si. Ma svegliate, non me ne dà che va a vigile, va. Adesso hai fatto qualche cosa. Ma vengono con i furgoni, con la macchina e col carrello, scaricano e se ne vanno, ma lo riempiono il cassonetto, quasi uscire fuori, non lasciano spazio per gli altri, per la gente che abita lì. Io penso che quello del furgone le avranno fatto 1500 euro di multa, le avranno fatto. Anche le ha girato i fotografie, fatto con il telefono. Ha fatto quello. Adesso ti mettono come paparazzo. Ah, guarda che un giorno io per quel coso lì, quando l'hanno fatto a Sant'Orsola, che hanno iniziato a Sant'Orsola, li ho criticati forte, che erano travaglieni, li ho criticati che, ma non si può fare una cosa del genere in una città grande. Voi volete fare come Cagliari, ma non ve ne riuscite, vero? Come dice che noi siamo uno di quelli che non differenziamo bene la mondezza, siamo i peggiori proprio, quindi che non la differenziamo proprio, la facciamo male a differenziare. Tu dilli che ci sono gli anziani, che gli anziani non sopportano queste cose qua. Loro devono pensare che ci sono gli anziani che non lo sopportano, devi fare la differenziata così. E poi gli anziani uscire alle 8 di sera per buttarci la mondezza, noi ci può buttare dalle 8 di sera, è dentro il cortile, abbiamo dovuto fare anche per aprire il cancello, la tastiera numerica, abbiamo pagato 350 euro solo per questo. Cazzo, io ci sono dinammi, sono un bel denaro, ma fa una cosa del genere a contentare acquisti, all'ingegnere del comune, la giubilata a voi, la giubilata io che andrò travagliando, ha detto ma non si può fare una cosa del genere, lei la pensa a modo suo, pensi agli anziani cosa deve fare, che quando sta piovendo non ci scende neanche se la tiene in casa. Pensi quello lì, lei pensa solo a fare la cosa giusta, ma non ci riesce. Ha più criticato. Sì, a Santa Maria di Pisa hanno detto che fanno quello che vogliono, che il quartiere è loro e che non li comanda nessuno. E Brani ha detto io. E quello gli hanno già detto, che provino a farlo qua, vedere, se vi riescono a tenerlo, e rimetteranno attorno ai cassoni. Sì, a parte che questi Brasili sono sono frutti, volano se c'è vento. Dopo cinghiali, li rovesciano, si mangiano in tutto, facciano un casino niente. Io l'ho visto a Porto Torres, cosa succedeva quando c'era vento, gli smatteva le macchine, in mezzo a carriera le acciappate. Era un comune pagava l'assicurazione. Ma non si può fare una cosa del genere nelle città grandi. Metti i cassonetti grandi, metti con il lucchetto e apri. Vedrà che non ci riescono a farlo più, a arrivare macchine da fuori a chi non apre. E sono capace di rifacciare il lucchetto e non vuol dire una testa. Comunque ci vorrebbero solo più controlli, telecamere e controlli, così almeno anche negli orari bui, tipo verso le 8, che la gente ne approfitta a quell'ora a buttare la roba che non deve buttare. Si bisogna tenere bisogni, a fianco ai cassonetti, di tutto e di più. Guarda per il filmato di Rai 3, quando di stasera, ti faccio vedere per Daniela. Che l'hanno pulita e ne torna brutta. Oh via, avanti la vecchia Italia. Forse c'è anche Carlo. Carlo. Ciao, buonasera a tutti. Piove e fa freddo e va bene, sì, stavo ascoltando Gianni e ti chiedo una cosa, buonasera a tutti e ripeto, hai risolto? No, è venuto anche l'idraulico e non ce l'ha fatta neanche con la pompa. Mannaggia, prova quel prodotto lì che ti ho inviato se lo trovi, se no vedi un po' se si può ordinare, ma penso ce lo abbiano a Ghiacciattari, non so chi lo venda, capito? Dovrebbe esserci, penso, anche da Tecnoman. Provo, dai, faccio l'ultimo tentativo, perché se no mi ha detto che devo chiamare l'autoscudo. L'unica cosa è quella prima di sfasciare. Tanto scuro con la telecamerina va la scena in fondo, eccetera. Attenzione, Fast Furious! E lo è. Ciao a buonasera a tutti! Ciao a tu! Ciao! Come sei? Io! Non so, ma rumonti gioco! E infatti si vede al segnale, dove c'è? La strada dove c'è l'altro mattino? No, negativo. Ho dei nocchi in via, come si chiama? Ma chi Marasurfi è? Dove c'è questo bar, chicco bar, chi Marasurfi è? Ah, vicino alla chiesa del pastore, sì. E quello lì dovrebbe essere, non è via Prati, non lo ricordo che via sia, comunque delle strade dei pini, adesso non mi viene in mente. Buonasera a tutti, mi sentite anche? Io sono in barattolo mobile. Col barattolo sì, senza ruote. Ma sì, è attaccato sono tutti alla bomba. Attaccato sì. No. Se 9.30, oggi è attaccato se mi gira a casa. Ah, ma sono convinto dall'agraria. 9 più 20. La serie, già. Quello là che mi ha detto. Esatto. Ho detto già. Ho detto quello là che mi ha detto. Quello là che ti ho detto. No. Sempre quello, eh. Va bene, che va bene. Avanti a chi spetta, a chi spetta. C'è una guarnizione, ci ho messo, me ne entra in die, ma in occhi mi. Ma dove? Senta la macchina. Dall'antenna. Ehi, l'ho tutto vulcanizzato, ci ho messo la guarnizione. Te l'ho detto, oggi metti mastice nel buco, attorno, oppure ci metti un po' di silicone sotto l'antenna, di modo che tu come tu la stringi, si attacca e non esci più, e il silicone non ti fa entrare acqua. Gli ho messo la guarnizione e va la, non la grande, no, di più, oltre. E allora se va bene così, lascialo così, se pettiriccia. Chi è rimasto? Carlo, li primi, tu fai girare per mare. Niente, a me oggi è arrivata l'antennina che ho ordinato, la boomerang, ho preso una Sirio 27A, ordinata 3 giorni fa, mi è già arrivata, meno male che mi hanno trovato a casa al corriere, ben imballata in un tubolare di cartone, tutta chiusa bene, quindi l'ho piazzata. Adesso quando fa tempo buono, insomma una bella giornata, la metto, capito? Dovrebbe essere un pochettino meglio rispetto a questa che ho. E niente, l'ho pagata 2 citti, una cinquantina di euro. E già va bene, se va bene. Vediamo quando la piazzi. Adesso stai arrivando, prova. 1, 2, 3, 4, prova radio. E sei già 9,25 adesso. Poi vediamo quando metti con l'antenna, sei quasi 9,30. Ah, va bene. Ok, però mi dà sempre le onde stazionarie alte questa, capito? Per quello che la cambio. Appa, dai che sono arrivato a casa, ci sentiamo tra un po'. Marco. Vai Marco. Diga, ciao Antu. C'era Luca in parcheggio da un po', vediamo se riprende Luca. Sì, sì, sono presente, sto facendo l'ascoltone. Ah, oh, ti stanno le orecchie grandi. Sì, è serata da stare a casa. Io sono uscito, sono rientrato adesso, ero a piedi, sono uscito a piedi con l'ombrello, ma ho fatto una camminata, ogni tanto ci vuole, già fa bene a camminare, se no sempre in macchina, in mezzo al traffico, con la pioggia pure, non è cosa, tutti a cercare parcheggio. E sono andato da Cusaro, il via 4 novembre, a piedi, e mi ho preso un PL di quelli che vanno sull'antenna, però a 90 gradi, perché altrimenti fa troppa curva l'attacco, capito? Ho capito. Adesso ci è rimasto solo lui, scusate. Ci sono passato anche io alle 5:30 da Fusaro cercando il cavo H155 e non è A e non è porta, per cui lo dovrò cercare da qualche altra parte. Fai su internet, lo prendi. Vabbè, ma nell'ambito del possibile mi faceva piacere fare un po' di economia qua, perché se chiudo anche Fusaro veramente non rimane niente. Però non è A, e va tipo su va. Non si bilanciano, sono su ordinazione, certe antenne, per dire, se ne butta, le ordina. Per me, a me lo smetto fatto, metto quello grande, quello che volevo io. Ma l'ho dovuto ordinare, capito? Poi mi ha telefonato, c'è il mio numero, mi ha telefonato e mi ha detto guarda Gianni che è arrivato, sono andato e me l'ho ritirato. Vabbè, ma non può pretendere neanche che mi compri tutta la bobina, no? Perché ce l'aveva e quando l'ha portato l'ha venduto anche bene. Però gli ho detto ma ce l'ha venduto bene perché non lo riporta, perché non ho idea di quanto tempo mi rimane qua. Cosa ti posso fare? Loro non possono sapere, ma ci ferma il giorno d'oggi, prendere roba che non gira è sempre, diciamo, un rischio. Quanti metri te ne servono, Luca? Ma ne avrei voluto prendere una ventina. E non so da quanto siano le bobine, capito? Se sono da 25, niente, perché anche a me servirebbero 10 metri, dai, 8 metri, dovrei riuscire. Se ci fossero bobine da 30, magari 20 a te, 10 a me, l'avrei preso io, capito, ci saremmo, insomma, divisi la spesa. Sto curiosando adesso su Amazon quanto costa e come sono. Anche la cacetta è buona. Vedi a Globo direttamente, vai. Io la cacetta, quello grigio. Perché il mio palazzo è grigio, per non dare problemi che si vede troppo, questo e quell'altro l'ho messo di quel colore, capito? Poi ho avuto l'occasione, un amico ne ha preso una matassa, poi ce la siamo divisi io, Tonino, Franco, California e pure per il Codocchi. Infatti alla fine conviene fare così, capito? Tanto se Fusaro non è porta, la gente sta giusta e ordina. Io lo stesso poco fa sono andato per questo CL, ho visto quanto costa e ho detto vabbè, tanto è solo uno, capito, quindi non è tanta roba. E quindi quando è così ci vai, e altri pensavano non l'avesse, invece ce l'aveva, meno male. Ho evitato di stare lì ad aspettare che ti arrivi, capito? Quando è così va bene. Però quando tu cerchi una cosa e loro non ce l'hanno, sono rivenditori, GPC, insomma, dovrebbe avere tutto, capito? Quelle cose per gli appassionati di Citizen Band, insomma, cavi, PL, tante altre cose, pali, antenne, antennini, capito? Se le porti poi la gente le vede, le compra. Hanno paura di rischiare, capito? È quello che c'è, hanno paura di rischiare. Ma ecco la CBC, cosa rischia? Ma hai visto cosa va? Prendo, ha tutto un mezzarimbedi. No, ma quello è morto, quello di Seraseca d'oro, lo sanno? Morto è? Certo, non penso che andrà a dubbio io, già è una di che non fa dubbio. Ma ce l'avevo visto, mi pare... Vabbè, l'hanno baciato, l'avevo visto. Dice che è stato 3 giorni, che non va più per negozio, sono andato a controllare a casa sua e l'ho trovato morto in casa. E chi l'ha preso adesso? Ma non lo so, non penso che l'abbia preso nessuno. A quanto mi hanno detto, dice che stavano svuotando, che stavano prendendo la merce. Sì, se ne avvia poco di merce. Ordinava, invece io avevamo ancora pagata. Ma se c'è una roba che non si ricordava di avere, mi chiedevo una cosa e non mi ricordo se mi è arrivata, devo guardare. Comunque c'aveva un po' di roba che adesso non trovi più da altre parti, c'aveva quarzi per i baracchini, c'aveva pezzi che tu non trovi da altre parti, lui li trovavi perché c'era antiquati di tanto tempo fa. E c'aveva il capo, il 58 modificato, con il doppio coso. Io ne ho preso 10 metri, ne avevo preso. Allora, quando c'era Battisio, l'avevo preso, e ce n'ho ancora. Ed è buono quel cavo lì. Quello con doppia calza. Sì, quello con doppia calza. Quello lì, costa un pochino. Ed è buono. Hola, mi sentite? Sì, anche troppo forte, sì. Ma sto arrivando bene il segnale? Prova. 1-2-3, 1-2-3. Sempre lo stesso, sì, 1-2-3. No, dico, non ci sono difetti? A vedere. È ultimo, va bene. Perché dici se ci sono difetti? Perché cosa ci sta facendo? No, è ultimo. A me c'è il 30, quindi... Ed è così. No, sto controllando come si comporta. Ottimo proprio, no, questo lo lascio a casa, è bellissimo. Ottimo, lei, c'è la griglia. Cioè, adesso bene sto arrivando, sì. Sì. Chiamo una pace, uscita a tratti, anche tu sì. Ho detto che è ottimo il segnale, va. Ok, la prova è fatta adesso. Vedi, qualche volta c'è qualche problema adesso il microfono. Che non se ne va nulla. Lo so, è il microfono. Io devo poi a pulire un po' di strapper contatti. Avanti Luca, riprendi tu, dai. Che stasera ti sento di poche parole. Ecco, mentre ti ascolto io sto sempre navigando, cercando, controllando prezzi. E così mi passa il tempo, fra un po' ci dedichiamo ai fornelli. E ma l'hai trovato il cavo? No, sto guardando questo Ultra Flex 7. Non lo conosco. Ma mi prendi a chi tocca? Marco Condor, si è l'appello. No, Marco dove sta facendo cosa? Riprendi il cavo, dai. Sì, prima stavate parlando di spazzatura eccetera. Ieri qua hanno fatto i cassonetti, proprio qua, via Brunizzetta, angolo via Pola, non ci sono più, però poco più giù hanno lasciato gli altri, quelli che sono vicino a casa di Marco, nella piazzetta, saranno a, ora ti posso dire, 50 metri più in giù, capito? Quindi a me poco mi cambia, capito? Se c'ho da buttare la plastica, il cassonetto della plastica, e continuo a buttarla lì. Se lasciano i cassonetti nella stessa via, io abitando nella stessa via li posso buttare dove voglio. Vi lascio. Marino Sassarese, ti può buttare da tutte le parti, interessante che paghi la tassa monese che divida bene la roba. Invece nei baraccini hanno fermato una signora che stava buttando la roba, le hanno chiesto i documenti e questa ha detto, ma qua c'è scritto Santoso, la signora abita a Santoso, ha detto, perché la sta buttando qui la roba? Perché io lavoro da una signora anziana e mi ha chiesto la cortesia di buttare la Vondese, gliela sto buttando, e lì abita qua via Mores, gli ha detto. Ah ok, va bene, quindi era di quell'altra signora e dovrebbe essere regolare. No, io già la fraziono, plastica, la carta, cartone, quello sì, capito. Però finché ci sono i cassonetti, io la butto nei cassonetti. Li hanno tolti qua sotto casa, pazienza, faccio due passi in più e la butto dove trovo i cassonetti. E ma adesso li toglieranno anche lì, anche invece la casa sicuramente li tolgono, perché qua fanno, a volte vengono una macchina col carrello, l'ho visto già due o tre volte, buttano con le buste nere che tra l'altro si possono usare, con le buste nere grandi, tutte con roba mischiata, appigliati da paduto. E figurati che da quanta roba butta, rimane il coperchio del cassonetto aperto, perché non chiude da quanta ne mette. Lo so già, ho visto gente buttare sacconi anche io, e chissà cosa c'è dentro. Infatti quelli neri sono fuori legge, no, io già ho anche le buste che mi hanno dato per la plastica, capito, la carta, plastica e carta, buste, e ce li ho, c'è il codice e tutto quanto, quindi se controllano vedono la busta, il codice, vedono che c'è carta, a me non mi dice niente nessuno, il vetro lo butto nel vetro e così via, e quello indifferenziato lo butto nell'indifferenziato, non ci sono problemi, io già uso le buste regolari. Luca, io passo in QRT, buona serata a tutti, buona cena e ci sentiamo alle prossime. Per dove fanno la popò, non posso metterla in mezzo alla carta normale. Ho sentito già, solo che c'è qualcuno che stava parlando sotto, anche se sei passato tu, avanti chi voleva intervenire. Sono Luca, passo in QRT che è rientrata la signora. Buona serata a tutti e buona cena. Ciao, altrettanto Luca. Buona continuazione, avanti cara. Ciao Luca, buona serata, ci sentiamo alle prossime. Carlo, ma stava piovendo. Piovigginando, poca roba, però sta sempre piovigginando, capito? Poche gocce, ma sta sempre facendo. Io sono sceso dopo un pranzo, col cane ce lo devo riportare. Ma non vedete in voi, se sta piovendo, mamma mia, che palle. L'altra sera sono uscito col cane, non stava piovendo, proprio quando ero proprio in mezzo, fuori dai palazzi, proprio dove c'è il prato, via Borba, lì. Grazie a tutto di Sacquazzone, ci ha fatto 10 a 10, siamo anche lungati. Sì, mio, guardato adesso perché c'è la luce e si vedono le gocce che scendono, è poca roba, sta sempre piovigginando, quindi se ti porti l'ombrello, capito, giusto per la testa e le spalle, già va bene, non è che è molta l'acqua, se devi portare il cane già può uscire, non è che lo inzuppa, capito, non è tanta. Non lo so, c'era Tove magari che in stand by da un po' se vuole riprendere. Sì, riprendo e mi ritiro anche. Chiudo già, ci risentiamo alle prossime. Ciao Gianni, ciao Carlo, ciao a quell'altro che c'era, ciao Antonio e ciao agli ascoltoni, quelli con le orecchie grandi grandi. Ci risentiamo alle prossime. Agli amici di Buco. Ciao Tore, buonasera, alle prossime. Ciao Tore, buona serata, buona continuazione. Ok, ci risentiamo alle prossime. Figlia della Bastiglia. Ciao Tore. Marco, poco fa ti abbiamo chiamato, come va la scelta? Già, sono sempre avanti e indietro per una ragione o per l'altra. Ho pigliato il cellulare o la bottiglia d'acqua. Allora, ti ho mandato gli orari, il calendarietto di quando ritirano. Comunque stavamo parlando di incivili prima, di telecamere, e c'è un articolo dell'Unione Sarda, dice a Sassari, ulteriore stretta sugli incivili con installazione di 66 telecamere sparse qua e là, eccetera eccetera. Volevo chiedere a Carlo, ma lui quanti colori di busta gli hanno dato, per curiosità? Perché qua mi pare ci siano 1, 2, 3, 4 colori, mi pare di vedere. Non c'è il cartone si deve arrangiare tutto, devi cercare un cartone, metterci il cartone tagliato dentro e metterlo lì. Non lo so se quello del cartone a me non me l'hanno dato. Santo vanno Vassiano, se ne deve andare. Sì, è vero, il cartone mi pare, o metti un cartone, uno scatolone, o lo metti in una busta, non lo so, ho letto, ma me la sono già dimenticato. Va bene, riprendi Carlo. Ci ho pagato i baffaghi sul mestiere. Le buste gialle, poi me le hanno date verdoline, mi sembra, trasparenti, diverse tipologie. A dire la verità, lo stesso mi hanno dato i mastelli, o come me li hanno dati, a parte l'orario, il calendarietto che mi hanno dato, ho messo tutto giù in garage e ho lasciato lì buste e tutto quanto. E qua io sto utilizzando delle buste degli stessi colori, capito? Giallo per la carta e poi c'ho forse bluette, però sono tutte trasparenti, capito? Hanno una leggera colorazione. Ovviamente le devo finire, queste sono senza il codice, queste che sto utilizzando adesso, che sto buttando ancora nei cassonetti, e poi appena le finisco non ne compro più e utilizzo quelle che mi ha dato il comune, capito? Ma giallo non è plastica, scusa. Sì, già, plastica lattina, gialla, confermo, verdolina all'umido, aspetta, vabbè, non me la metto, ce n'è una marrone.